lavoro di Giancarlo Siani. Qual era il contesto? È che Giancarlo Siani sicuramente è stato ucciso, siamo arrivati alla terza sentenza, anche se adesso è stato riaperto il caso, però diciamo siamo arrivati alla terza sentenza, che è stato ucciso dai camorristi, i camorristi che avevano fatto già il passaggio entrando dentro Cosa Nostra, dentro la cupola, e quindi non era vero quello che si pensava all'epoca, che la nuova famiglia non facesse parte della mafia. Questo è vero, però è anche vero che, come dire, l'eliminazione di Giancarlo Siani faceva comodo ad altri livelli sociali, e questi erano appunto gli imprenditori, i politici e anche alcuni giornalisti che non vedevano di buon grado il lavoro di Giancarlo Siani. Ancora oggi, mi pare. Come dire, ovviamente ci sono le cose che circolano nell'aria e diciamo l'ambiente culturale e intellettuale napoletano, quello è. Io Roberto Saviano l'ho conosciuto prima che scrivesse Gomorra, perché faceva il lavoro giornalistico ed era uno dei bravi giovani giornalisti che ci fornivano delle informazioni che altrove non passavano. Secondo me Gomorra è frutto di un lungo percorso in cui appunto c'è anche il lavoro di Giancarlo Siani, è fatto di quotidianità, ma di quella quotidianità di cui spesso c'è bisogno. Il lavoro anche di Roberto Saviano, di Gomorra, film e libro eccetera, ci hanno aiutato a comprendere non solo quel fenomeno ma anche una realtà che altrimenti non riuscivamo a percepire. Il viaggio d'Italia in controluce nelle città che nel 2011 andranno al voto amministrativo. Questo viaggio d'Italia in controluce è partito da Milano e oggi siamo a Torino. Paolo Piacenza ha intervistato il sociologo Bruno Manghi. Per quanto sia ridotto il peso della vecchia ditta, diciamo il saper fare, organizzare, le conoscenze vengono di lì, anche se si applicano altrove. Quindi la manifattura, sia pure moderna, resta tra le opzioni che la città ha, mentre tarda, come abbiamo visto, il terziario a assumere una dimensione competitiva rispetto a manifatturiero, anche se noi sappiamo che sarà il terziario già oggi ad assorbire, diciamo, occupazioni, competenze, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il tema. Ecco, ma l'idea della città della conoscenza che era emersa un po' di tempo fa, anche in relazione alla, come dire, è un modo per tradurre l'opportunità olimpica in una prospettiva, no? Anche legata. La conoscenza di cosa? Perché società della conoscenza non è Heidelberg. Città della conoscenza legata però ai saperi organizzativo, eccetera, che tecnico-scientifico, che devono trasferirsi su altri settori. Cioè, il successo delle Olimpiadi era stato in qualche misura la capacità che aveva dimostrato la città e anche il suo volontariato, devo dire, oltre che i dirigenti, a portare su un evento squisitamente terziario quelle modalità organizzative di precisione, eccetera, eccetera, che aveva appreso nel percorso manifatturiero. Ecco. Attualmente poi mancano all'appello molti pezzi, proprio la salute intesa non come miglior salute, cura, eccetera, ma come acceleratore dello sviluppo. Questa è una delle occasioni mancate degli ultimi anni che si può recuperare. Cioè il settore sanitario, intende? Certo, certo, certo. Questo settore sanitario inevitabilmente ha una capacità di assorbimento del lavoro straordinario, oltre che ovviamente è chiamato ad operare su una cosa delicatissima che è la salute, ma è anche un possibile vettore di sviluppo. La manifattura continua però a dipendere molto da Fiat. A Torino, a suo avviso, c'è la capacità di rischiare che si nota per esempio nel nord-est? Ovviamente non siamo al nord-est, però diciamo la quantità, la numerosità eccetera di imprese anche al di fuori dell'automobile c'è. Il Lombardo-Veneto è fuorviante, cioè nel senso che è, diciamo, è una cosa unica nel pianeta come fervore, quantità eccetera. Il nord-ovest era una cosa più sistemica, allineata di due o tre settori a cui non mancano variazioni. Se pensiamo all'alimentare torinese e piemontese, pensiamo una cosa importante che è la Ferrero, la Vassa eccetera. C'è stato anche un periodo dove l'ITC ha avuto un relativo peso. Ci sono fenomeni meccanici non automotive, quindi se uno va a guardare da vicino trova tante altre cose, ma erano oscurate dalla potenza dei numeri dell'automotive. Venendo meno in qualche misura questa potenza di numeri, anche se tutti dipendiamo dalla sua solvenza eccetera, inevitabilmente entreranno nel cono di luce le altre cose, cose che forse conosciamo meno. Ecco. Cosa dovrebbe fare il soggetto comune in questa situazione? Deve partire dalle persone intanto. Non deve ritenere di essere, diciamo, il pianificatore del settecentesco. Deve partire dalle persone e farle partecipare. l'economia entra in questo, cioè l'idea è un pochino balzana, insomma, che improvvisamente i municipi o cose di questo tipo diventano i pianificatori, insomma, fa un po' ridere i polli, cioè devono pianificare la loro specialità. Ci vuole una politica estera rivolta all'attrazione di capitali e di investimenti. Questo per dire, chiaro che sono cose che vanno fatte, però di questo sono cose che vanno fatte con l'autorevolezza del municipio, ma non sono cose sostitutive, sono additivi dello sviluppo, sono aiuti alle energie che ci sono, perché se non ci sono le energie possiamo avere anche Emanuele Filiberto, ma non capita niente. Si tratta, come sempre in questi casi, anche di un ruolo, di un confronto di classi dirigenti. Cioè di, sì, beh, anche, io dico, facciamo lavorare questi quarantenni e non rompiamoci più i coglioni. Mettiamo in competizione tutta sta gente, insomma, senza discredito per nessuno, ma insomma. Cioè, ma lei si riferisce alla classe dirigente politica? Municipale, intanto, beh, quella è fondamentale. Questo vale per converso anche perché ovviamente un quarantenne o dintorni nel municipio o altrove è anche qualcuno che promuoverà quarantenni nelle municipalizzate, che lavorerà volentieri con degli imprenditori quarantenni, con i sindacalisti più giovani, con la cooperazione sociale più giovane. Cioè è molto importante questo passaggio di generazione. Il centrosinistra torinese però appare un po' in difficoltà. Il centrosinistra torinese se la cava discretamente, nel senso che è una tradizione amministrativa decente, malgrado Roma. Diciamo, sia il berlusconismo sia la Lega non sono così competitivi, quindi può farsi del male solo da solo. Da quello che mi ha detto però capisco che la candidatura Fassino non le piace. No, una brava persona, vuol bene la sua città, però voglio dire, mi sembra un po' fuori luogo. La prima edizione di Italia in Controluce termina qui, torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24 con altre storie.